come farfalla che va nel cielo, vola in alto il mio pensiero e sai che cerca te. Dolce segreto sarà l'amore in questa mia canzone che canto solo a te. Quando incontri l'amore, batte forte il tuo cuore e ti sembra che tutto sia migliore. Quando incontri l'amore, si ritorna bambini a giocare come tanto tempo fa. Sia migliore. Quando incontri l'amore, si ritorna bambini a giocare come tanto tempo fa. Quando incontri l'amore, batte forte.